un altro giorno. Lui si è alzato. È andato verso il mare. Anch'io sono andata vicino all'acqua. L'ho guardato, ha visto che lo guardavo. Strizzava gli occhi dietro le lenti. E mi sorrideva. Scuoteva appena la testa con quel suo modo particolare. Come scherzasse. Sapevo che sapeva. Sapeva che io ogni giorno pensavo. Ogni giorno avrei pensato. Robert non è morto nel campo di concentramento.